Il cacciatore di libri di Alessandra Tedesco. Every time I see you in the world, you always step to my girl. Buon anno alle lettrici, ai lettori che seguono il cacciatore di libri. Come sempre, in questa prima puntata dell'anno ci dedichiamo a quelle che sono le anticipazioni per il 2015. Insomma, che cosa leggeremo quest'anno? Quali saranno gli autori, diciamo, più famosi, più noti, che torneranno nelle librerie? Ma quali anche i nomi meno conosciuti, addirittura gli esordienti, che dobbiamo così segnarci, appuntarci su un taccuino da tenere d'occhio? Come sempre per questa prima puntata dell'anno ci affidiamo alle segnalazioni che arrivano dagli stessi editori. Questa puntata quindi è una sorta di vademecum su come possiamo orientarci nella lettura in questo 2015. Naturalmente un vademecum assolutamente parzialissimo, perché insomma non siamo ancora in grado di sapere con certezza che cosa verrà pubblicato a ottobre o a novembre del 2015. Alcune cose, alcune indicazioni ci sono, per altre dovremo naturalmente aspettare. E allora iniziamo questo viaggio fra le case editrici che ci segnalano le loro novità per questo nuovo anno. Partiamo con Mondadori. Per Mondadori abbiamo sentito Antonio Franchini, che è il responsabile della narrativa italiana e straniera appunto di questa casa editrice. Partiamo dunque dai grandi nomi che tornano nelle librerie in questo 2015, sentiamolo. Nel 2015 ritornano molti autori classici del nostro catalogo, da David Leavitt a Eggers, a Chuck Palahniuk, a John Grisham, e anche una curiosa novità di un romanzo YA scritto da Sophie Kinsella, il primo YA scritto dalla Kinsella, che sarà una sorpresa per le sue affezionate lettrici. Per quanto riguarda gli esordienti o i nomi meno conosciuti, che cosa dobbiamo tenere d'occhio sul catalogo Mondadori quest'anno? Io vi direi di tenere d'occhio in particolare il romanzo nuovo di Fabio Genovesi. È un romanzo di grande impegno, si chiama Chi manda le onde, ed è una bellissima orchestrazione di sentimenti su uno sfondo di vita provinciale, ma è una storia di solidarietà, di affetto, di tenerezza, che passa con estrema rapidità dai toni più drammatici a quelli più ironici, più divertenti, più teneri. Insomma, un bellissimo romanzo. Poi consiglierei un altro romanzo che esce a gennaio, francese. L'autore si chiama David Fenquinot e il romanzo si intitola Charlotte, ed è una storia, anche questa, estremamente toccante, questa volta purtroppo storica, perché è il romanzo della vita di Charlotte Salomon, che fu una bravissima giovane pittrice ebrea che morì ad Auschwitz. Lei è considerata una sorta di Anna Frank pittrice, solamente che la sua vita privata fu anche una vita privata estremamente movimentata e drammatica, per cui il romanzo di Fenquinot, che tra l'altro sta diventando un enorme bestseller in Francia, è uscito a settembre, ha venduto 400.000 copie in pochissimi mesi, è una storia quindi estremamente toccante, che mescola il dramma privato con il grande dramma della Shoah. Segnalerei anche l'uscita del romanzo più importante e più grande di Antonio Moresco. Si chiama Gli increati ed è probabilmente il tassello definitivo di un'opera che Moresco ha cominciato con Gli esordi e poi proseguito con I canti del caos, quindi è veramente una sorta di pezzo finale del grande tempio letterario che Moresco ha eretto. E Lo avete sentito dalla voce di Antonio Franchini, responsabile della narrativa italiana e straniera di Mondadori, che nel 2015 torna l'americano Chuck Palahniuk. Vi ricordo, il suo primo romanzo aveva avuto veramente un notevole successo, si intitolava Fight Club, era del 96 ed era diventato un bestseller soprattutto, diciamo, dopo l'uscita dell'omonimo film, insomma qualche anno dopo. Tornerà appunto nel 2015 anche John Grisham con un nuovo legal thriller, ma devo dire che fra le proposte di Mondadori quella di cui sono più curiosa di leggere è sicuramente il libro di Fabio Genovesi, Chi manda le onde. Sono particolarmente curiosa di questo libro, naturalmente ho letto un po' la scheda, la trama, ma soprattutto perché è un autore che seguo e che mi piace molto. Per esempio avevo letto Versilia Rock City, che era un libro veramente ironico ma nello stesso tempo che faceva pensare. Tra l'altro ritrovate su radio24.it nell'archivio del Cacciatore di Libri l'intervista appunto a Fabio Genovesi sui suoi libri, insomma sui suoi libri passati. Dalla Mondadori passiamo alle Einaudi, insomma vediamo che cosa ci proporrà la casa editrice diretta, direttore generale ed editoriale appunto Ernesto Franco. Sentiamo dalla sua voce quali sono innanzitutto gli autori più noti che torneranno in libreria. Senz'altro i grandi nomi che, come dire, aprono l'anno sono per esempio Paola Mazzocola con L'esercito delle cose inutili, che è un libro che, come dice in realtà segretamente il titolo, pesa il valore di ciò che non è immediatamente utile ma è profondamente utile nell'anima. Francesco Piccolo, che con momenti di trascurabile infelicità, dopo il grandissimo successo dello Strega e di momenti di trascurabile felicità, torna appunto con questa mirabile interpretazione della quotidianità e anche qui dell'esistenza di ciascuno di noi. In stile libero, il primo libro si intitolerà Perfidia di James Elroy, una trilogia dove Roy torna a Los Angeles, che è il teatro del suo immaginario più potente. Questi sono un po' grandi ritorni, grandi nomi, insomma, che riaprono l'anno, ecco. Per quanto riguarda invece esordienti e nomi meno noti, chi dobbiamo tenere d'occhio? Secondo me c'è un libro di un francese, Antoine Laurent, il titolo sarà La donna dal taccuino rosso, ed è un libro molto felice in senso, mi verrebbe da dire, tecnico, nel senso che è la storia di un libraio che è appassionato del suo mestiere, anziché ha abbandonato un mestiere molto più, come dire, redditizio per fare quello del libraio, che trova una borsa da donna evidentemente frutto di un furto e poi abbandonata per strada, e attraverso le cose che trova dentro questa borsa, siamo a Parigi, ricostruisce il ritratto di questa donna prima di tutto, e soprattutto si innamora della persona che aveva quella borsa, che aveva quegli oggetti tenuti con quel particolare cura e affetto dentro quella borsa, e inizia una vera e propria ricerca, una vera e propria indagine. Beh, insomma, da Einaudi quindi arriverà un nuovo romanzo che parla di libri, la storia appunto di un libraio. Questi sono libri tendenzialmente che vanno molto molto bene, affascinano i lettori italiani, quindi vedremo come sarà questo La donna del taccuino rosso. E tornerà anche Francesco Piccolo, sono curiosa di leggere questo suo nuovo romanzo pamphlet, insomma ancora non so come definirlo. Francesco Piccolo, lo ricordiamo, fresco di Premio Strega, è stato il Premio Strega del 2014 con Il desiderio di essere come tutti. E veniamo ora alle proposte della Rizzoli. Michele Rossi è responsabile della narrativa, ecco da lui qualche dritta sulla produzione 2015. Se parliamo di grandi nomi, il primo che vorrei segnalare è non un ritorno ma un ambitissimo ben arrivato a Maurizio De Giovanni, autore che ormai tra i grandissimi delle classifiche e delle librerie in Italia. Maurizio De Giovanni, che per Rizzoli non segue la consueta traccia noir, ma con Il resto della settimana va a raccontare, diciamo, un suo, questo qua è il libro più atteso, mi sento di dire, per cui va a raccontare un altro filone che non vorrei svelare ancora perché dobbiamo pazientare per qualche settimana, ma vi aspetto in libreria il 26 febbraio. Dopodiché ci potremo divertire molto con il primo romanzo di Serena Dandini, ma anche con il terzo episodio della saga della masseria delle allodole di Antonio Arslan. E poi si può chiudere meglio che con Dacia Maraini che torna al romanzo? No. Per quanto riguarda invece gli esordienti o comunque i nomi anche meno noti, però insomma i nomi Rizzoli da tenere d'occhio, che cosa dobbiamo segnare nella nostra agenda? Forse qualcuno di voi ha sentito parlare di Claudia Zanella, che fino a qualche anno fa ha fatto l'attrice con successo, dopodiché mi ha raccontato questa storia di cui mi sono innamorato follemente io e anche altri editori che per fortuna non hanno avuto il privilegio di pubblicarla, quindi iniziamo con lei e tu e nessun'altra. In gennaio segnalo anche con forza l'esordio di Carmen Totaro, in questo romanzo che è arrivato finalista al premio Calvino 2 anni fa, noi non l'abbiamo pubblicata con la fretta che a volte gli editori hanno perché l'abbiamo fatta lavorare, e la perla nera, nerissima, ma pur sempre di perla che vi proporremo invece a febbraio è Le Pine di Grazia, e questo è un romanzo su cui appunto mi sento di puntare molto. E per fare un po' di serissimo rumore, vi vorrei parlare anche di Sebastiano Mauri. Ha scritto un pamphlet sul tema delle unioni civili. Sebastiano, con Il giorno più felice della mia vita, entra a gamba tesa sul tema, delle persone che si innamorano di altre persone e non possono sposarle. Un libro, dico libretto perché sono 120 pagine, ma in realtà è un libro intensissimo, caustico, che sa far ridere, ma che sa far riflettere, con cui noi vorremmo portare avanti proprio una battaglia di civiltà. Allora, fra le proposte Rizzoli che ci raccontava Michele Rossi, appunto il responsabile della narrativa, personalmente sono curiosa del Maurizio De Giovanni non noir, ecco, mettiamolo così, e vi posso anticipare che ho iniziato a guardare le bozze di questo romanzo, Le Piene di Grazia, di Carmen Totaro, che uscirà appunto a febbraio, e sembra un romanzo veramente interessante, insomma da tenere d'occhio. Naturalmente avremo modo di parlarne poi direttamente nelle puntate più in là del Cacciatore di Libri. Bompiani sempre fa parte del gruppo RCS, e la parola dunque a Elisabetta Sgarbi, che è il direttore editoriale, ci parla delle proposte della sua casa editrice per il 2015. Parlo delle uscite di questo mese, e quindi subito il 9 gennaio il nuovo romanzo di Umberto Eco, intitolato Numero Zero, 5 anni dopo Il cimitero di Praga. È un romanzo che farà molto parlare e che al centro i temi del complotto e svela i meccanismi della macchina del fango, ed è ambientato nella redazione di un giornale, cioè del Numero Zero di un giornale. E sempre a gennaio, perché questo mese è molto importante per la Bompiani, uscirà il nuovo romanzo di Michel Houellebecq, di cui molto si è parlato a dicembre, quando si annunciava l'uscita in Francia, ma il 15 di gennaio di questo mese uscirà per noi Sottomissione, questo è il titolo, e Sottomissione è la traduzione della parola Islam. È un romanzo visionario, attualissimo, perché Houellebecq immagina che l'Islam prenda il potere in Francia. Ci saranno anche sempre nei primi mesi dell'anno due nuovi autori non così noti, ma da tenere d'occhio assolutamente, che sono slavi. Una è un'autrice, si chiama Dasa Dantric, il suo romanzo è intitolato Trieste, il sottotitolo è Romanzo documentario, è una scrittrice croata e fa un grande affresco del Novecento e delle tragedie dal punto di vista di una città simbolo che è appunto Trieste. E poi invece un autore, il cui nome è difficile da pronunciare, esce sempre alla fine di gennaio Ismet Pricic, il titolo è Skedje, è uno scrittore bosniaco che è emigrato negli USA e racconta la guerra in Bosnia. Caspita, che accoppiata esplosiva per Bompiani. Insomma, si inizia con Umberto Eco e Michel Houellebecq, che insomma è un grande provocatore, scrittore francese. Uno dei suoi libri più noti è Le particelle elementari, anche in questo caso avevano tratto un film. Spesso quando si traggono film da libri, naturalmente i libri hanno un exploit particolare, e devo dire che l'accoppiata Umberto Eco Michel Houellebecq è piuttosto forte. Insomma, sono due libri sicuramente che andranno letti. Veniamo ora invece a Longanesi, alle proposte per il 2015. Giuseppe Strazzeri è il direttore editoriale. Partiamo come sempre dai nomi più attesi. Quest'anno ci aspettiamo sicuramente un bel ritorno di Wilbur Smith, che già a Natale, nella stagione natalizia, ha fatto un bellissimo exploit con un ritorno alla sua saga egizia. Ci aspettiamo in questo caso che si avventuri sul terreno del thriller contemporaneo, che è un altro dei suoi filoni, e da quel che sappiamo si preannuncia un ritorno molto molto forte. Per stare a casa nostra, non può mancare un Alessia Gazzola. Alessia è al suo quarto episodio della sua serie, che ha per protagonista Alice Allevi, il medico legale. Lei ormai è una case carpetta all'italiana, che ha un suo pubblico affezionatissimo. Un altro ritorno a cui tengo particolarmente è quello di Graeme Simsion. Graeme Simsion è stato, diciamo, un bel caso editoriale longanesi con L'amore un difetto meraviglioso. Torna lui e torna anche il suo personaggio Don Tillman, che è il suo malato di Asperger, che cerca disperatamente di avere delle relazioni affettive normali, con effetti che sono tenerissimi e comici al tempo stesso. L'amore è un progetto pericoloso, questa volta è il titolo del romanzo. Per quanto riguarda invece esordienti o nomi un po' meno conosciuti, su che cosa puntate quest'anno? In questo caso ci piace, anche perché non è un terreno poi così consuetudinario per Longanesi, ci piace segnalare due italiani, perché sono nuovi, sono particolarmente forti. Il primo è Lorenzo Marone, che con la sua La tentazione di essere felici, secondo noi, ha disegnato la cosa più felicemente vicina a Barney Panofsky. Quindi siamo alle prese con un vecchio cinico e burbero, ma in realtà pronto a mostrare tutta la sua umanità. Poi abbiamo una scrittrice giovanissima, Lavinia Petti, che non esito a definire, la butto lì, è lo Zaffon italiano. Ha scritto un romanzo fortissimo, che si intitola Il ladro di nebbia. Dico soltanto che quello che per Zaffon era la sua Barcellona, per Lavinia è Napoli. Il suo protagonista è uno scrittore di bestseller, disinteressato al grandissimo suo successo, ma che è alla ricerca di una risposta importante nella sua vita, che troverà nei vicoli della sua città. Allora, sulle proposte longanesi posso già darvi, come dire, il mio personalissimo giudizio, perché ho avuto l'opportunità di leggere in anteprima La tentazione di essere felici dell'esordiente, o quasi esordiente, Lorenzo Marone, e vi devo dire che è un libro molto molto bello. L'avete sentito, Strazzeri lo definiva il protagonista di questo romanzo una sorta di Barney era il protagonista della versione di Barney, romanzo bestseller di Mordecai Richler, tra l'altro uno dei miei libri preferiti, quindi insomma non è un caso che poi mi piaccia anche La tentazione di essere felici. Però ecco, questo è sicuramente un esordiente da tenere d'occhio. Lorenzo Marone, La tentazione di essere felici, uscirà a breve insomma in libreria per Longanesi. Veniamo ora alle proposte garzanti. Elisabetta Migliavada è la direttrice della narrativa Garzanti. Quali sono i grandi nomi? Sentiamola. Allora, i grandi nomi garzanti che ritorneranno quest'anno sono Andrea Vitali, che ovviamente non mancherà di regalarci più di un romanzo l'anno prossimo. Poi ci sarà un grandissimo ritorno, ovvero Vanessa Diffenbaugh, che è l'autrice del Linguaggio segreto dei fiori, che finalmente torna con un nuovo romanzo che Garzanti pubblicherà prima in tutto il mondo a maggio. Poi abbiamo Clara Sanchez, che torna più vicina, perché siamo qui a febbraio. Il libro della Sanchez si chiama Le mille luci del mattino, ed è la storia di una ragazza molto giovane che aveva un sogno, ovvero diventare proprio scrittrice, ma l'ha dovuto abbandonare perché ha perso il lavoro, si ritrova senza fidanzato. Insomma, è una donna molto in crisi, come spesso sono all'esordio nei loro libri le donne della Sanchez, che si troverà a fare un lavoro come segretaria in un grande palazzo di vetro alla periferia di Madrid, ma ben presto il suo capo, che passa tutto il giorno a leggere classici, quindi insomma non è che lavora tantissimo, presto lei smuoverà delle cose in un archivio per caso che provocheranno il crollo di quest'uomo, la sua caduta totale, da lei non assolutamente voluta, ma che mostrerà alla protagonista una nuova visione della realtà. Per quanto riguarda invece esordienti o nomi meno conosciuti, che cosa dobbiamo tenere d'occhio su Garzanti? Allora, abbiamo un'autrice che pur appunto essendo un'autrice che è al suo primo grande debutto è già stata venduta un po' in tutto il mondo, che è una cosa che insomma ci dà delle rassicurazioni, delle sicurezze per il suo debutto in Italia, che si chiama Michela Tilli, il suo libro si chiama Ogni giorno come fossi bambina, che è la storia di due donne molto diverse, una sedicenne e una vecchietta di 80 anni che troveranno un legame sconosciuto e insieme riusciranno a compiere un viaggio che a tutte e due serve in qualche modo. Poi abbiamo l'esordio di un'autrice giovanissima, perché è un'autrice che ha 17 anni, si chiama Alice Ranucci, il titolo del suo libro è In silenzio nel tuo cuore, ed è un romanzo che ha iniziato a scrivere quando aveva 15 anni. Lei è una sorta di talento della letteratura, perché già da 9 anni, da quando aveva 9 anni, scriveva racconti, ed è la storia di una ragazza che si trova nella giungla di un liceo romano, e dico giungla perché è davvero una giungla dove per sopravvivere dovrà fare delle cose non tanto così, un po' moralmente discutibili, ma poi si redimerà. Ci posso scommettere che il libro, il romanzo di Clara Sanchez sarà un nuovo successo in Italia. Clara Sanchez è una delle scrittrici straniere più amate in Italia. Ogni volta che lei pubblica un libro, non so, vi faccio alcuni titoli, per esempio Il profumo delle foglie di limone, sale subito ai vertici delle nostre classifiche. Quindi ci scommetto che questo Le mille luci del mattino, che uscirà a febbraio, insomma, scalerà subito la classifica dei libri più venduti in Italia. Oh, e allora veniamo a Feltrinelli adesso. Feltrinelli, che cosa ci propone per quest'anno? La parola a Gianluca Foglia, che è il direttore editoriale. Questo 2015 è per noi della Feltrinelli un anno davvero speciale, perché festeggiamo i 60 anni, l'anniversario dei 60 anni della casa editrice. Per fortuna di grandi autori, di grandi nomi che arrivano a festeggiare questo 60° anniversario, ce ne sono non pochi. A marzo aspettiamo il nuovo romanzo di Alessandro Baricco, La sposa giovane, ad aprile il nuovo romanzo, ed è un ritorno particolarmente gradito perché, come dire, lo abbiamo atteso per anni, il romanzo di Vinicio Capossela, Il paese dei coppoloni. A maggio ci sarà il nuovo libro di Stefano Benni, sono racconti dell'orrore, quindi è un grande autore che si cimenta giocandoci anche con il genere. Ci sarà il ritorno di Maurizio Maggiani, ci sarà a fine anno il ritorno di Isabella Allende, e speriamo anche altri, insomma, quindi sarà un anno particolarmente ricco di grandi nomi a festeggiare questo nostro 60° anniversario. Per quanto riguarda invece gli esordienti o i nomi, diciamo, meno noti, quali sono appunto i libri Feltrinelli da tenere d'occhio quest'anno? Giusto per limitarsi a queste prime settimane dell'anno, tra pochissimi giorni, il 7 gennaio, andrà in libreria un esordio a cui tengo e teniamo molto, perché ci ha molto colpiti. È il primo romanzo scritto da Enrico Ianniello, un attore di grande qualità, che viene dalla scuola casertana di Toni Servillo, ma che si è cimentato con una storia romanzesca. Il titolo del romanzo è La vita prodigiosa di Isidoro Siflotin, racconta le avventure di questo personaggio, Isidoro, che è un bambino che nasce con una dote, con una caratteristica molto particolare, cioè che quella, anziché di parlare, di emettere i primi vagiti, fischia, e questo fischio accompagnerà tutta la sua vita, tutte le sue peripezie e speriamo il divertimento e la commozione dei lettori. Quindi questo è un libro subito a inaugurare l'anno, il 7 gennaio, a cui teniamo molto. E poi un altro italiano che voglio citare, che uscirà a febbraio, non è un esordiente ma esordisce in Feltrinelli con un libro a mio giudizio molto importante e di grande promessa anche rispetto ai lettori che potrà conquistare, il nuovo romanzo di Marco Missiroli, si intitola Atti osceni, luogo privato. Voglio dargli davvero un benvenuto in Feltrinelli perché ha scritto un libro importante, già letto e apprezzato da autori come Manuel Carrer, tanto per dire, e che noi andremo appunto a pubblicare alla metà di febbraio, e sono sicuro che sarà uno dei libri di cui si parlerà molto in questa stagione. Avete preso appunti allora anche sui libri Feltrinelli, Alessandro Baricco a marzo, bisogna aspettare maggio invece per Stefano Benni con questi racconti horror. E devo dire che io sono molto curiosa di leggere questo nuovo romanzo di Marco Missiroli, perché Missiroli è uno scrittore che abbiamo seguito fin dai suoi esordi con Il Cacciatore di Libri, anzi all'epoca si chiamava Leggo, questa rubrica di Radio 24 dedicata ai libri. Lui aveva vinto il Campiello Opera Prima con Senza Coda, pubblicato all'epoca da Fanucci, poi insomma l'avevamo seguito anche con gli altri suoi libri e con Il Senso dell'Elefante era arrivato fra i 5 finalisti del Campiello Senior, definiamolo così, insomma, del campiello tradizionale, ed è uno scrittore che mi piace molto perché ha la capacità di indagare nell'animo umano, in tutte le sue sfaccettature, nelle contraddizioni, quindi sono molto curiosa di leggere questo nuovo romanzo di Marco Missiroli che uscirà a metà febbraio. E Missiroli ha avuto, tra l'altro, come dire, la benedizione su questo suo romanzo, niente poco di meno che dal francese Emmanuel Carrer. E lo stesso Carrer ritornerà in Italia nelle librerie a metà febbraio con il suo nuovo romanzo. Carrer, lo ricordiamo, è uno scrittore francese di culto, insomma molto molto seguito sia in Francia che all'estero. Giusto per capirci, insomma, Carrer è quello che ha scritto il bestseller Limonov, ma ha scritto anche romanzi come La Settimana Bianca e L'Avversario, che secondo me è un romanzo, veramente un piccolo romanzo strepitoso. Questo nuovo romanzo, che uscirà in Italia appunto a febbraio, si intitola Il Regno. In Francia è stato un grande successo, è uscito a settembre del 2014 e in sole 2 settimane aveva venduto 250.000 copie. Vi leggo alcuni commenti dei critici francesi su questo romanzo di Carrer. Immenso, esilarante, esplosivo, un capolavoro. Insomma, devo dire, ci sono molte molte attese su questo nuovo Carrer. È una sorta di inchiesta, ovviamente romanzata, perché è un romanzo, sulla nascita del cristianesimo. Va dal primo secolo d.C. ai giorni nostri, ma naturalmente Carrer ci mette molte molte delle sue riflessioni personali. Quindi appuntamento con Emmanuel Carrer per febbraio con Il Regno, pubblicato da Adelphi. Grazie in regia a Gianmarco Ferronato, che ci segue sempre molto attentamente dall'altra parte del vetro perché è un appassionato lettore. E io vi ricordo che trovate sempre il podcast su radio24.it, potete seguirmi su Twitter come Ale Teddina e su Facebook come Il Cacciatore di Libri, /Radio24. Una buona lettura e un buon anno da Alessandra Tedesco.